Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Quarta puntata per Rotte Sonore, abbiamo un ospite anche questa puntata, ovviamente sarà sempre così, avremo ospiti da un po' tutto il mondo, tutte le puntate. Intanto benvenuta Costanza, ciao. Ciao Babbe, grazie, benvenuto a te e benvenuto Lamin. Ciao a tutti, benvenuto anche, buona serata a tutti. Lamin, da dove vieni? Io vengo da Libia, sì, esatto, con la capitale, si chiama Tripoli. Tripoli, ok. La conosciamo, no? La conosciamo molto bene, ormai è diventata famosa, se ne parla parecchio, anche perché negli ultimi anni sono successe un sacco di cose. Però ho visto che hai portato della musica che non è musica tradizionale, ma è musica che ascolti tutti i giorni. Puoi presentarci intanto il primo brano con cui... Sì, certo, mi piace molto la musica, anche così. Anche mi piace Italia, mi piace tempo, lingua, tante cose. Però ascolti anche musica inglese, ho visto. Sì, davvero, c'è una musica che mi piace molto, tutto il mondo conosce questa musica, con giovani, con persone vecchie, con tutti. Come si chiama? Si chiama... Tini Tempa featuring Jesse G. La canzone si chiama I'm Not Letting You Go. Let's play. Yes. Yeah. Yeah, ready for the summer, girl, your hair look killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your hair get thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler. Chicka chai, chicka chicka shy, DJ Dilla. Now I'm on the right track, went from a train to a limo. Now we on the right track. Yeah, used to know me back in college, now I got it like that. Could've gotten sidetracked, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up and leave? Now you're scratching on me like we're Adam and Eve, playing remix to Ignition in the back of the Jeep. Ah, she like the hook, but she don't know the verse. She know I love her even if I never say the words. You are something I can't replace. You made my heart burn. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. You are something I can't replace. You made my heart burn. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. يا نسمة حنان وغنوة الأجواء اللي تملى فكري وخيالي يا بلادي حبك موالي عليك كل ما يغلى غالي يا بلادي حبك موالي وعليك كل ما يغلى غالي يا حبيبتي طفلي بكرة وضحكة بنتي وتراب جودي الغوالي يا بلادي حبك موالي عليك ولا ما يغلى غالي يا بلادي حبك موالي وعليك كل ما يغلى غالي يا بلادي حبك موالي عليك كل ما يغلى غالي يا بلادي حبك موالي وعليك كل ما يغلى غالي Yabladi. Yabladi il mio paese, esatto, come persona mi piace molto il suo paese, anche io vivo in Europa come lui ha vivuto in Francia 25 anni fa, perché c'è problema con il governo, con, non lo so, ah così, anche lui mi piace molto il Calzioli, lui ha vivuto in Francia fra 30 anni, esatto. Anche lui suona chitarra. Suona in chitarra bene, anche sì, famoso il mio col mio paese. Questa ragazza famosa si chiama Abdel Fakhroun. Così. C'è tanti calzoni, ma adesso questa numero uno, tutti il mio paese conosce questa. Questa si chiama la mia patria, ma la tua patria, abbiamo capito, è Bengasi. Bengasi, sì. Però prima hai detto che si chiamava Barca. Barca, come così, come italiano in lingua, prima si chiama Barca. Bengasi, 45 anni fa si chiama Barca. Ma adesso tutti cambiano, si chiama Bengasi. Ma prima davvero si chiama Barca. Ed era stata una colonia italiana, quindi con, sì, con tanti buildings, con tante costruzioni italiane, tanti, anche chiesa, anche tanti quanti ospitali, anche tutti i nomi italiano, anche i nomi delle vie, perché anche le strade dalla prima colonizzazione, sì, dal 1912, sì, davvero, ed è ancora rimasto più o meno tutto così. No, non è difficile, perché mio padre parla italiano bene, mia madre parla italiano bene. Questo tempo come il 1962-63, questo tempo c'è guerra tutto il mondo, come Europa, come Africa, come Tunisia, come Egitto, sì, sì. La guerra di liberazione. Sì, a generico. La scuola senza inglese, francese e anche italiano, senza inglese. Mia madre parla italiano bene e mio padre è morto, mi si piace per questa cosa, l'ho ricordato adesso, ma parli italiano e anche francese bene, perché la scuola. Ma di che generazione erano? In che anni erano nati? Prima della guerra? Tempo fa, prima della guerra. Prima, sì, della guerra? Prima, quindi, della guerra. Quindi avevano fatto le scuole italiane? Sì, trilingue, madrelingua, arabo, perché tutti i miei paesi parlano arabo, tutte le persone, madrelingua, ma la seconda lingua inglese, ma prima inglese, ma italiano anche francese, numero italiano e due francese. Va bene, ma adesso ci fai sentire quindi una canzone in inglese? Sì. Non hai Rosso Ramazzotti? Sì, prego. Sì, c'è un canzone, un ragazzo non è famoso, ma si chiama Karam Scott, si chiama il canzone Dancing on My Own. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own in the night. Said I'm in the corner watching you kiss her. Oh no. I'm right over here, why can't you see me? Oh no. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, music dies, but you don't see me standing here. Quindi ci dicevi che tua mamma non voleva che dicessi ospedale piuttosto che qualsiasi altro luogo pubblico, nomi di strade nella tua lingua madre, ma nella lingua del regno italiano, insomma, in sì. Italiano, no? Sì, davvero, anche for example, mia madre sono andato all'ospitale, non parlo in mia lingua ospitale, come mia lingua si chiama ospitale Mustafa, Mustafa è generico, tutti in arabo conosce questa, ma mia madre è specialista in questa cosa, dove va madre? Ospitale, come l'italiano, esatto, così. L'italiano, come possiamo sentire, ti è rimasto, no? Sì. L'hai ripreso venendo qua? Beh sì. Sì. Ma quanto tempo è che sei qua in Italia? Io un anno e 6 mesi in Italia, esatto. Provo a immaginare se io venissi in Libia e dovessi imparare l'arabo, in un anno e mezzo non lo imparo di certo. Sì, io te, tu vai l'arabo bene subito, 6 mesi, solo 6 mesi. No, scorso, l'arabo è difficile, come 2 anni, 3 anni, tu parli arabo. ma subito non come l'italiano. L'italiano 6 mesi ti parli bene italiano, perché lingua, madrelingua dal latino, e tutti i latini lingua è italiano. Anche diversi come il francese, come gli spagnoli. Ah, così, ma l'arabo è difficile, troppo difficile, no? Questa chi è, Amin? Questa è una ragazza, si chiama Adele, lei... Inglese? Sì, inglese, Inghilterra. Molto famosa. Molto famosa, anche questa è il calzone, tutto il mondo è ricordato questa, perché tanti... innamorato anche... e tante cose insieme, tu, due persone innamorato, anche c'è un problema con lui. Hello. È così. Ma l'hai scoperta qua in, hai cominciato ad ascoltarla qua in Italia o l'ascoltavi già in Italia? Che lei è italiana? No, no, Adele è inglesissima. Adele è inglese? Sì, sì, è inglesissima. Ma they say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So home. la Min sei veramente internazionale, cioè hai portato musica inglese e adesso addirittura vedo un brano in spagnolo, Pablo Alborán, però il titolo è in italiano. Sì, Pablo Alborán, questo ragazzo non è vecchio, ma un anno fa questo ragazzo c'ha un album, anche lui bravo, anche È famosissimo, tra l'altro. Sì, anche questa canzone si chiama Salamanca Tu, come il innamorato. Sì, è una canzone d'amore. Sì, amore. È strano perché ha il titolo in italiano. Sì. Però è cantata in spagnolo. E come l'hai conosciuta? Perché sono bravo italiano, diversi come lo spagnolo e italiano, non è facile. Ma tu conoscevi già lo spagnolo? Un po'. Quindi hai usato lo spagnolo come lingua tramite per imparare l'italiano? Sì, davvero. Ma perché hai abitato anche in Spagna? No, perché la lingua è l'italiano, qui in Italia. Ah, ok. E come cioè, togli la curiosità, cioè, come arrivi a queste canzoni? Sfogliando YouTube? No, tramite amici? Ah, miei amici spagnoli, vivo in capitale in Spagna. Anche lui parla spagnolo e anche italiano bene, lo aiuta a me come il amici, come i miei amici. Anche lui mi piace queste canzoni perché ha tanti memoria con la sua ragazza, una cosa così. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu. E con solamente tu salutiamo il nostro Lamin e lo ringraziamo perché ci ha portato tanta musica diversa, di lingue diverse, come inaspettata. Sì, inaspettata, ma come diversificata la conoscenza, la sua conoscenza delle lingue e anche del mondo a sto punto. E del mondo, sì. Sì, grazie mille Lamin. Anyway, I like this song because my best friend, he was from Spanish, from the capital, and he got some good love with his girl, and when he liked to listen to the she's voice, and he want to call her and he make shot with her, he played that music. That time I was thinking to learn Spanish language is not difficult between Italian Spanish language. At that time I loved that song, and yeah, like that. Ok, thank you very much, Lamin. Welcome. Grazie per l'ascolto e la pazienza, per accordateci, gentili ascoltatori di Radio Città del Capo. A questo punto ci sentiamo alla prossima puntata. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buon pomeriggio.